Kurdista grida libertà contro i padroni e il capitalismo. Il Kurdistan non si arrenderà. Il Kurdistan è una lunga storia, la sua terra offesa, umiliata dalle mani crudeli e assassine. Il Kurdistan non si arrenderà. Il Kurdistan è stato ferito con torture, massacri e galera dal potere arrogante che uccide, ma il Kurdistan non si arrenderà. Mentre il mondo chiude gli occhi, le vostre colpe di essere colpevoli, calpestate anche i diritti umani, ma il Kurdistan non si arrenderà, non mai. Le nostre lacrime sono un fiume amaro, le ferite sono aperte ancora, e il Kurdistan un giorno sarà libero. Prigionieri innocenti incatenati, anche i bambini hanno segni sul corpo, il mostro umano è il regime più nero, ma il Kurdistan non si arrenderà. Quanti figli al freddo e al vento per difendere questa terra che piange, sconfiggere il nemico con la forza, il Kurdistan non si arrenderà. Quante volte è passata la morte dalla faccia malvagia assassina su questo popolo che grida pace, ma il Kurdistan non si arrenderà. Il Kurdistan un giorno sarà libero, libero, libero, libero.